Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Lo chiamano Oninno per la sua faccia da bimbo che ha mostrato sorridente pure alle telecamere. E davvero poco più che un ragazzino era Antonio Iovine al momento del suo ingresso nel clan. Ora che lo hanno catturato era invece uno dei capi dei casalesi, latitante da 15 anni ma sempre rimasto lì nel suo paese, nel Casertano, come fanno tutti i veri capi, e lì alla fine è stato fermato. Storiacce di questa settimana torna nelle terre di Gomorra con due nomi simbolo della lotta alla Camorra. Entrambi hanno partecipato in vesti diverse al processo Spartacus, il maxi processo dei casalesi, e entrambi hanno continuato ad occuparsi della malavita campana. Uno è Federico Caffiero De Rao, procuratore aggiunto della DDA di Napoli, titolare dell'inchiesta che ha portato alla cattura di Iovine. L'altro, Raffaello Magi, il giudice della prima sentenza Spartacus. Anche di recente ci sono state comunicazioni tra Iovine e Zagaria, l'altro super latitante. Ci racconta Caffiero, che parla della cattura del boss, del suo profilo, ma anche della polemica recente tra Saviano e il ministro dell'interno Maroni. Antonio Iovine ha assunto negli ultimi anni una posizione apicale che è andata via via aumentando con l'arresto di Schiavone Francesco Sandokan, di Bidognetti Francesco. È stato anche definito come la congiunzione tra il passato e il futuro di questo clan. Ecco, procuratore, a questo punto la sua cattura, si è detto anche che non necessariamente possa indebolire l'altro grande superboss ancora latitante, Michele Zagaria. Con la cattura di Iovine è evidente che Zagaria dovrà sentirsi ancora più accerchiato rispetto al passato. Dal punto di vista invece del ruolo, il suo è già un ruolo apicale. I capi hanno un controllo del territorio. Per Michele Zagaria il controllo del territorio e le attività criminose proseguirà sicuramente fino alla sua cattura. Questo discorso del legame sul territorio può voler dire che, così come è stato con Iovine e così come in genere succede per la maggior parte dei boss di una certa caratura, anche per Zagaria si può immaginare che si nasconda nel suo territorio, quindi tra Casal di Principe e dintorni. I casalesi non abbandonano mai il territorio. Allontanarsi definitivamente dal territorio significherebbe perdere potere. Lo fece Bardellino nell'80 allontanandosi per il Brasile, per Santo Domingo, e nel giro di pochi anni venne decretata la sua morte. Un allontanamento dal territorio rientra nella strategia della latitanza, ma un rientro è indispensabile. All'esame vostro ci sono i computer, ci sono altri effetti personali e ci sono anche dei bigliettini scritti. Quanti sono quelli che avete trovato? Secondo un meccanismo oramai rodato, il pizzino è certamente il documento che consente una comunicazione, ma i grossi latitanti, più che del pizzino, si servono dei loro riferimenti e verbalmente comunicano con gli stessi. Adottano tanti accorgimenti per escludere qualunque possibilità di individuarli sul territorio. Le indagini si fanno su coloro che sono attorno, non su di loro, che è quasi impossibile intercettarli anche attraverso un'attività tecnica molto sofisticata. Avete raccolto tracce di una preoccupazione delle persone vicine al boss sull'effetto anche mediatico, politico, che investigativo ovviamente, che l'attenzione sui casalesi ha portato? È stata raccolta più volte questa constatazione che all'interno del clan è stata compiuta. Il clan si è sentito ripetutamente in difficoltà, soprattutto sul territorio. Il clan dei casalesi è costituito da una struttura militare, ma anche, e direi soprattutto dal punto di vista della pericolosità, da una struttura economico-imprenditoriale. L'indebolimento sul territorio, con i numerosissimi arresti che ci sono stati, è stato certamente sentito dall'organizzazione e più volte attraverso le attività che la Procura Antimafia di Napoli ha sviluppato sono emerse. Su quale aspetto hanno notato la ricaduta dell'attività investigativa più stringente? Bene, il primo aspetto è quello dell'indebolimento della struttura militare. Gli arresti sono stati eseguiti nell'ordine di circa 300 nell'ultimo anno e mezzo. Ebbene, quando la pressione investigativa elimina dal territorio gruppi consistenti di uomini, è chiaro che si risente sia sotto l'aspetto economico. Le casse del clan infatti non riescono più a recuperare le somme precedenti, sia sotto l'aspetto operativo. A ciò si aggiunga inoltre la risposta dell'imprenditore, il quale di fronte a una pressione investigativa e ad una giustizia che funziona, di tanto in tanto si affida agli organi investigativi con la denuncia. Procuratore, ma hanno fatto una qualche stima, diciamo così, degli effetti che tutti gli arresti e di tutta la pressione che su loro c'è stata ha portato? Riferendomi a una conversazione di circa un anno fa, si parlava di 300.000 euro al mese che dovevano entrare solo in una determinata zona. Era una somma rispetto alla quale non riuscivano nemmeno a tirar fuori la metà, anzi quasi un terzo. Ciò comportava l'esigenza di intervenire per recuperare somme anche al fine di assicurare il sostegno dei detenuti, e bisogna poi rimpiazzarli anche sul territorio. I rapporti tra i due vertici del clan, quindi Iovine e Zagaria, erano buoni oppure c'era una faida tra le due correnti? No, non c'era alcuna faida. Ricordiamo che nel 2008 l'ala stragista di Setola determinò numerosi morti proprio per indurre la popolazione al continuare a sopportare l'organizzazione stessa. Ciò però suscitò una forte reazione dello Stato. Da quel momento, dopo il fallimento della strategia stragista, i rapporti fra i vertici del clan dei Casalesi non furono di contrasto, ma furono piuttosto di colloquio, di accordo, perché era necessario ricostituire un'unità. È esatto già pensare che ci possono essere state delle comunicazioni, almeno sulle decisioni più importanti tra Iovine e Zagaria negli ultimi tempi? Ma questo sicuramente, anche i collaboratori di giustizia ce l'hanno riferito. Hanno a che fare sulle scelte imprenditoriali o sulle scelte militari? Gli accordi avvengono soprattutto per quanto riguarda le scelte militari. Le scelte economiche invece vengono adottate dai singoli capi con riferimento alla rete economica e imprenditoriale che ciascuno di essi ha costruito. Avete raccolto elementi che rimandino anche direttamente a Saviano e a Gomorra? Per quanto riguarda Iovine, non mi risulta che sia stato trovato il testo di Gomorra, mentre questo testo, come altri testi, sono stati trovati nel corso dell'esecuzione di altre catture di latitanti, Nicola Schiavone, Panaro Nicola. È di questi giorni la polemica tra Roberto Saviano e il ministro dell'interno Roberto Maroni. Come ha valutato quelle parole di Saviano a proposito di Maroni, quell'aver affiancato le parole del ministro dell'interno a quelle dell'avvocato di Sandokan? Sicuramente Saviano oggi è un simbolo, il simbolo della legalità. Ha un significato altissimo l'azione che svolge quotidianamente, che è un'azione di informazione, di risveglio delle coscienze civili. Il ministro dell'Interno, dal canto suo, ha fatto tantissimo per le nostre zone. È stato presente mensilmente nelle riunioni di comitato tenute a Caserta, cosa mai avvenuta prima. Gli organi investigativi in alcuni casi hanno avuto aumenti di organici. Credo che sono due immagini di due persone che operano certamente entrambi contro la criminalità organizzata. Ora che tra, diciamo, i buoni si aprano delle polemiche, credo che sia qualcosa da superare sicuramente. In determinati momenti si perde il controllo della parola. Io ho visto peraltro la trasmissione di Saviano quando ha parlato appunto delle infiltrazioni al nord, allo scopo di sottolineare quanto sia grave la situazione, richiamare l'attenzione di tutti, può anche aver comportato un'esagerazione espressiva, sulla base però di un fondo di certezza, che è l'infiltrazione al nord delle mafie. Invece, a proposito delle minacce che lui stesso ha ricevuto da Sandokan e averlo affiancato al ministro Maroni? Quando si entra in polemica diventa difficile poi mantenere il controllo della parola. È evidente che Francesco Schiavone, nel momento in cui dice vediamo se ripeti le stesse cose guardandomi negli occhi, per la verità non lo aveva detto nemmeno Francesco Schiavone, ma diciamo la persona con la quale Roberto Saviano aveva parlato per avere un consenso ad un colloquio diretto. Accostare questo al ministro dell'interno, per la verità, non è proprio un accostamento adeguato. Speriamo di sentirci presto per l'arresto anche dell'altro super latitante. Questo è il saluto di Caffiero De Rao. Sia Iovine che Zagaria sono stati entrambi condannati all'ergastolo nel processo Spartacus. Storielle. Storiacce. Ha scritto la prima sentenza del processo Spartacus e per quella è stato anche minacciato. Ma Raffaello Magi, giudice al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, continua a fare il suo mestiere nel Casertano e lì, in quel territorio feudo dei casalesi, ha visto il prima e il dopo di quel processo, come anche l'effetto del ciclone Gomorra. A Saviano dissi, ci racconta, le tue 300 pagine avranno un effetto più forte delle 3000 della mia sentenza e così è stato. Una sentenza che riguarda anche Antonio Iovine, il boss appena arrestato, come pure Michele Zagaria, l'altro ancora in fuga. Antonio Iovine era all'inizio ovviamente della storia, insomma, del clan dei Casalesi, poco più che un ragazzo. Partecipa da soli 24 anni all'atto un po' fondativo, diciamo, del clan dei Casalesi, che è l'omicidio di Paride Salzillo. Salzillo era il nipote di Antonio Bardellino. Chi decide di mettere in atto questa strategia di attacco ad Antonio Bardellino e ai suoi familiari sono Schiavone, Bidognetti e De Falco, cioè quelli che diventeranno poi i capi della nuova organizzazione. Ecco, all'epoca, parliamo del 1988, Antonio Iovine era un ragazzino, ma già ben inserito, diciamo, nell'organizzazione, tanto che prende parte, ed è stato poi da noi condannato all'ergastolo, a questo primo omicidio storico del maggio 88. Successivamente ovviamente partecipa anche alla guerra che sorge nei confronti degli appartenenti al gruppo Bardellino e anche dopo gli scontri interni che si verificano nel 91 alla guerra tra i seguaci di Schiavone e Bidognetti da un lato e i seguaci di Vincenzo De Falco dall'altro. Il suo potere è possibile in qualche modo indicarne il momento in cui registra una ascesa più forte, diciamo? Io credo che il suo potere sia cresciuto molto attraverso lo stato di latitanza. Dal 98 in poi, in particolare, dopo la cattura di Francesco Schiavone, cresce l'importanza dei latitanti storici che restano liberi e quindi di Iovine e soprattutto di Michele Zagaria. Iovine in particolare, dopo una prima fase, diciamo, in cui viene impiegato nell'attività militare, si dimostra particolarmente efficiente anche nelle attività, diciamo, economiche di riciclaggio, di reimpiego, diciamo, dei proventi illeciti attraverso locali notturni, ristoranti, attività imprenditoriali e commerciali anche nella zona, diciamo così, di Roma, intorno a Roma, insomma, tanto per fare un esempio. Quindi è stato, diciamo, tra quelli che più ha portato fuori le attività economiche anche dei casalesi. Quando parlava della zona intorno a Roma, ce n'è qualcuna in particolare? Molti dicono che un locale notturno, insomma, romano, Gilda, diciamo, sia ricollegabile attraverso dei prestanome a Antonio Iovine, così come uno dei suoi uomini più fidati, diciamo, che era Corrado De Luca, gestiva un ristorante a Roma che si chiama Il Destriero, insomma. Ma diciamo che storicamente i casalesi hanno sempre portato, diciamo, parte degli investimenti fuori dall'area campana. Qui, diciamo, investo sono soprattutto in attività, diciamo, imprenditoriali legate alle costruzioni, diciamo, in Campania, mentre fuori, diciamo, anche in altre diciamo, tipologie di attività. Dalla prima sentenza del processo Spartacus, lei sta continuando a lavorare appunto nel casertano. Ecco, quella sentenza ha segnato comunque anche concretamente un cambiamento, lei lo nota anche nei processi che arrivano alla sua attenzione? Secondo me sì, esiste in qualche modo, diciamo, un prima e un dopo Spartacus. Devo dire che quello che è accaduto in un primo momento mi ha preoccupato molto, perché l'adeguamento dell'organizzazione sul territorio è stato violento. C'è stato il periodo degli omicidi, diciamo, eccellenti fatti, sembrerebbe, insomma, dal gruppo Setole. Per fortuna, diciamo, questa situazione adesso, diciamo, è un po' venuta meno, grazie anche a una grossa, diciamo, repressione di tipo investigativo. I comportamenti ovviamente sono quelli che purtroppo però continuano a preoccuparci, perché non sono finite le estorsioni, non è finito, diciamo così, l'uso illecito del territorio, insomma, diciamo che probabilmente si è ridotto, ma chiaramente continua a esserci una presenza che si avverte. Nella vostra sentenza del processo Spartacus, invece, dell'altro grande supercapo dei casalesi che è tuttora latitante, Michele Zagaria, che cosa si scriveva? Lui ha partecipato, è stato condannato all'ergastolo perché ha partecipato all'omicidio di Vincenzo De Falco, che avviene nel febbraio del 1991 ed è un altro omicidio assolutamente strategico dell'organizzazione. E già in quel periodo Michele Zagaria, che è leggermente più grande, diciamo, di età di Antonio Iovine, era un personaggio assolutamente pesante ed influente. In particolare lui aveva una grossa alleanza con un narcotrafficante dell'area, diciamo, di Bea Domizia, che era Alberto Beneduce, poi ucciso nel 1990, e quindi aveva già una statura criminale particolarmente elevata già in quegli anni. Ovviamente il suo legame all'epoca con Schiavone e con Bidognetti era fortissimo. È chiaro che poi anche nel suo caso la lunga latitanza successiva e il fatto di poter agire, diciamo, in qualche maniera anche, diciamo così, da solo, ovviamente ha allentato un po' i legami con le famiglie di origine. E poi di Michele Zagaria c'è da dire un'altra cosa, che è più difficile, diciamo così, individuarlo, perché a differenza di Antonio Iovine non ha legami familiari, diciamo così, propri. C'è un aspetto, un episodio che mi ha particolarmente colpito, una telefonata che viene attribuita allo stesso Iovine, che insieme a Zagaria avrebbe anni fa telefonato ad un cronista del casertano per lamentarsi delle cose che venivano scritte. È un segno, secondo lei, della totale senso di impunità dei boss che arrivano addirittura a telefonare ad un giornale? Diciamo che l'episodio ha sempre colpito molto anche me. Devo dire che su questo episodio c'è una sentenza di primo grado che mette in dubbio che siano realmente stati Antonio Iovine e Michele Zagaria a fare quella telefonata. Io per la verità credo che invece quella telefonata l'abbiamo fatta loro. E credo che l'abbiano fatta non tanto per intimidire il giornalista, ma per evitare problemi di ordine pubblico sul territorio. Siccome il giornalista aveva ipotizzato uno scontro tra questi due soggetti, la loro smentita serviva però probabilmente a lanciare un segnale, diciamo, di pacificazione. L'utilizzo, diciamo così, di questi metodi è a volte, insomma, necessario. Dai processi si comprende che le comunicazioni interne ai gruppi chiaramente avvengono con grande difficoltà. Anche la cronaca giudiziaria spicciola inconsapevolmente a volte può essere utilizzata come strumento di comunicazione. Ecco perché noi, per esempio, i soggetti ristretti al regime del 41 bis poniamo un esplicito divieto di ricezione della stampa locale. Anche in questo caso, nella cattura di Iovine, sono stati trovati dei foglietti scritti, quelli che ormai sono universalmente ribattezzati come pizzini in un lessico che è attinto a Cosa Nostra. È evidente che è una, diciamo così, un uso che è strettamente collegato con le necessità della latitanza, ma c'è un linguaggio, c'è un certo codice utilizzato anche dalla camorra in questi pizzini oppure no? Nel processo Spartacus si racconta, ma non l'abbiamo mai trovata, di una lettera mandata da Schiavone Francesco Sandokan con una precisa spartizione dei vari territori, dei vari paesi su cui veniva indicato il singolo, diciamo, capozona, le famiglie di riferimento, una sorta, diciamo così, di decalogo, diciamo, operativo diffuso dopo il blitz, diciamo, del 95 del processo Spartacus. Questo ce lo hanno raccontato i collaboratori, non è stato mai reperito, diciamo, questo documento, mentre quelli trovati per esempio nei covi del gruppo Setola o di altri, diciamo così, soggetti in epoca più recente, devo dire che sono scritti in maniera molto semplice, molto rudimentale. Come sempre vi ricordo che potete riascoltare questa e tutte le altre puntate di Storiacce sul sito radio24.it e da lì accedere anche al nostro audioblog. Ciao, a sabato o ci ritroviamo su Facebook.